Billboard Music Chart. New York. Billboard Music Chart. Tokyo. Billboard Music Chart. Club 91. Club 91. Club 91. Club 91 presents. Club 91. Club 91 presents. Billboard Music Chart. Hello everybody, this is Fertile Kavanagh con Gino Palombo on controls. E ho appena abbassato la sedia perché Cherry sei molto più corte di me. Come la fai? Questo microfono qua adesso è a livello mio. Se mi metto in ginocchio, ok, problemi di soldi ragazzi? Figuriamoci, anche i Simply Red ne avevano una volta. Money's too tight to mention. Ma figuriamoci se Mick Hucknall, il cantante di Simply Red, ha ancora bisogno di parlare di soldi quando dice I'm talking about money, money, money's too tight to mention, ma quando mai? Comunque un bel ricordo per aprire il nostro trasmissione versione mercoledì sera di Billboard Music Charts. E questo pezzo ha fatto il nostro Gino ballare dietro questo vetro, quindi lo vedo carico. Allora ragazzi, una programmone stasera. Vi ricordo che che intorno al 21:40 avremo un'intervista con Erran, il cantante danese di quel bel pezzo intitolato Still Believing. E poi voi potete essere protagonisti del nostro programma firmando il nostro guest book. Il numero di mandare il vostro sms è 335 537 9191, oppure potete anche telefonarci al 081 549 9191. Ieri sera, se vi ricordate, abbiamo promesso di farvi sentire il nuovo di Lenny Kravitz, Your Stillness of Heart. I'm out here on the street, there's no one left to meet, the things that were so sweet, no longer move my feet, but I keep trying. Daido, che vuole essere una cacciatore o una cacciatrice di nuovo, avere un'altra opportunità, ma questa opportunità la puoi riavere, Daido, perché la tua casa discografica sta facendo uscire il tuo album di nuovo con un CD in omaggio con tanti remix, tracce live e video. Così il successo che hai avuto con questo album No Angel sarà replicato sicuramente. Vi ricordo che in Inghilterra soltanto ha venduto più di 1.700.000 copie e in Italia più di 300.000 copie, un sacco di dischi. Allora, a proposito di Natale, usciranno pure i Destiny's Child con un pezzo di nome 8 Days of Christmas. Here's Emotion Remix. Hey, sono al numero 12 in the American Hot 100 on the Billboard Music Charts con questo pezzo intitolato Emotion. L'emozione ci sono sempre quando si parla di Destiny's Child, ma chissà perché. Allora ragazzi, 21, poco dopo le 21:20, e perciò siamo arrivati al nostro appuntamento di Trick and Track, cioè la parte del programma dove noi vi facciamo sentire un po' di traduzione di una canzone. Allora, visto che stiamo guardando il Hot 100 dell'America, guardiamo al numero 22 e chi ci troviamo lì? Troviamo i Train con Drops of Jupiter, Tell Me, e questo vuol dire raccontami. Allora, adesso vi racconto esattamente che vuol dire. Billboard Music Chart. Adesso che è tornato nell'atmosfera, con gocce di Giove fra i capelli, si comporta come l'estate e cammina come la pioggia. Mi ricorda che c'è tempo di cambiare dal ritorno della sua permanenza sulla luna. Ascolta come la primavera e parla come giugno. Sei volata attraverso il sole, sei arrivata fino alla Via Lattea per vedere che tutte le luci si sono scolorite e che il paradiso è sopravvalutato? Dimmi, ti sei innamorata di una stella cadente, una senza una cicatrice eterna, e ti sono mancato mentre eri a cercare te stessi là fuori. Adesso che è tornato dalla sua vacanza dell'anima, ripercorrendo le sue tracce attraverso le costellazioni, si interessa a Mozart mentre pratica arti marziali. Mi ricordo che c'è spazio per crescere. Ti ha spallottato in giro? Hai avuto finalmente l'occasione di ballare lungo la luce del giorno e di tornare alla Via Lattea? E dimmi, Venere ti ha mandato fuori di testa? Era tutto ciò che volevi scoprire? E ti sono mancato mentre eri a cercare te stesso là fuori? Club 91 London. Billboard Music Chart. Paris. Billboard Music Chart. New York. Billboard Music Chart. Jackson on Billboard Music Charts con questo bel pezzo. Ma ragazzi, un po' di notizie a proposito di Michael Jackson. Sembra che si era ritoccato le sue immagini nello speciale televisivo sui concerti che ha tenuto a Madison Square Gardens. Ma questo è pazzo! Non solo vuole cambiare il mondo, ma anche vuole cambiare la nostra percezione di sé. Un pazzo Michael Jackson, forse è per quello che l'abbiamo. L'amiamo, sempre at number one! We got So when you step inside, jump on the floor. Situations at the door, so grab some of that. Through the wall. Oh, what should I do? The Sound of Chivalry with Goodnight Moon, Buonanotte Luna. Allora, you're listening to Radio Club 91 sui Billboard Music Charts. Stiamo andando avanti con la musica, la bella musica, con la bella musica carica. Era un modo di dire musica carica, però non esiste. Questi sono i Darude e il pezzo si intitola Bandstorm. Però prima di lasciarvelo sentire, voglio ricordarvi che tra pochissimo avremo l'intervista con Erran, all the way from Denmark, quello che canta Still Believing. E voi potete anche reagire mandando vostro SMS al 335-537-9191, proprio come ha fatto Roberta Do Sorrento. Grazie di averci sentito e seguito questa sera e tutte le altre sere che ci segui. Ciao Roberta, here's the route for you. Allora ragazzi, vi ho già promesso, dal lunedì vi stiamo promettendo che stasera parleremo con Erran, il nuovo star della scena danese. E infatti è qui con noi in questo momento. Hello Erran, how are you? I'm fine! Excellent, excellent. Allora dimmi dove sei, tell me exactly where you are now. What is the name of the place? L'assassino. L'assassino, wow, and I believe it's a restaurant, è un ristorante. Ristorante in Milano, and I have just been eating a fantastic lasagna. Ah, stavi mangiando un lasagna, è stupendo, e nel ristorante assassino sarà sicuramente il cibo meraviglioso. I want to say that I think now I've been traveling all over the world, and I can say now that for sure that the Italian food has some of the best cookers from Toscana. Ok, sta girando sure. Tutto il mondo e dici che sicuramente il migliore cibo viene dall'Italia e in particolare dalla Toscana. Erran, I wanted to ask you, I've been reading your biography here, and yes. I can see that you are heavily influenced by Ray Charles and Stevie Wonder, and right. I wondered who would you most like to play with, to collaborate with, if you had the chance. Allora, gli ho chiesto, visto che sue influenze maggiori sono Ray Charles e Stevie Wonder, con chi vorrebbe collaborare se avesse l'opportunità? Both. Both, okay, tutti e due di Ray Charles e Stevie Wonder. How about somebody from today's charts, shall we say, somebody who is... Today? Mm-hmm. Oh, I really like to make a duet with a nice, nice girl that I think is one of the best singers that we have. If she's not the best singer for now, I think she's going to be a legend. And her name is Lauryn Hill. Ah, excellent, excellent. Ok, risponde che vorrebbe, se fosse possibile, fare una duetta con un mito che è probabilmente la voce più bella che esiste al momento. Sta parlando di Lauryn Hill. That would be really interesting. And have you actually met Lauryn Hill? I see that you worked with the same producers as Erykah Badu and the Rolling Stones. That's right. No, I didn't. But I met some other very beautiful stars in the United States when I was in Hollywood. But you know what? Mm-hmm. I'm very happy that I'm trying to do to find out a concept for my own record, and I find out that to make simple songs and to record them yourself and to produce them yourself and to be what you really are is very important. Because if you're coming to United States, they can change you to something else. Okay. Allora, praticamente dice che il piacere di registrare e di produrre il tuo proprio materiale è un grande piacere, perché lavorando negli Stati Uniti loro ti cambieranno tutti quanti e tutte le cose che avevo in mente. So tell us a little bit about Still Believing. Raccontaci un po' di Still Believing, questo hit attuale. Tell us about how it was born, how you conceived this song. Erran? Once again, sorry. Mm-hmm. Okay, can you tell us a little bit about Still Believing, this hit that we're about to hear? Yeah. Okay, Still Believing is a song. It's a song about don't forget to believe in your dream. Don't forget that if you really love it, if you really want it, it will come to you. If you really, really, really want it, don't give up. Ok, allora dice non dimenticare mai di seguire i tuoi sogni, di non lasciare mai le cose, perché se la vuoi veramente ti arriverà. Ok, that sounds excellent. Listen, would you do me one more favor before you go and finish your lasagna? Will you present your record for us, Still Believing? Will you be the DJ for one moment, please, Aaron? Of course I will. What do you want me to say? How you would like your record to be presented on Radio Club 91. Okay, just a second. Where's my coat? Okay, sta cercando sui giacca. Perché stai cercando? Wait a minute. Ma dove vai? Where are you going? Coat? I have to find my coat. I need my coat. Where's my coat? Why do you need your coat? I'm just in a few minutes. I'm gonna get my coat, and I'm gonna tell you exactly how I want to present my record. Ok, allora tra pochissimo prenderà sua giacca e ci racconterà esattamente come vuole presentare il suo disco e stiamo aspettando. Eran, ecco, ti sento fischiare in sottofondo. I'm very close to my coat. Ci sta avvicinando. I'm very close to my coat. Oh, ci siamo quasi. I'm looking in my pockets. Just a second. Sta cercando nei suoi taschi, un attimo, questo radio in diretta. Come no? Aaron, we're on live radio here. I just want to tell you now that I want to say like that. I want to say I'm a positive guy. Sono un ragazzo positivo. I want to be real. Voglio essere vero. I think people need to be real. Penso che le gente devono essere veri. And if they want to have an interesting record. E se vuoi avere un disco interessante. They should get my record. Dovrebbero comprare il mio disco. Because you're gonna be happy. Perché sicuramente ti farà molto piacere. For sure. Sicuramente. All right, nice one, Aaron. Okay, my man. All right, looking forward to seeing you here in Napoli. You sound so great. Thank you. Buon appetito. Here's Aaron and Still thank Believing. You. Okay, ciao. You never Oh, there he goes, he's still believing. Erran in questo momento si trova in un ristorante a Milano, in un ristorante di nome L'Assassino. Sicuramente domani sera con la pancia sarà un po' così, speriamo che non l'ammazzano proprio. Allora ragazzi, siamo arrivati al momento di Now and Then, e questa sera ascoltiamo Patti LaBelle del 74, Amy Stewart del 94, All Saints di 98 e Christiana Aguilera, Maya Pink e Lil' Kim del 2001, Lady Marmalade. From the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want an enchi, enchi, yeah, yeah. Come on, mocha, chocolate. What? Rio Lady Mama. One more time, come on. Yeah. Moulin Rouge. Music and Billboard Music Chart. New York. Billboard Music Chart. Else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not her trace. Her doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? All you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace. Hooked out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. If I saw her face. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Ma che bello questo pezzo, che bello questo pezzo. E ecco perché non sono cantante, invece sono speaker su Radio Club 91. You're listening to the Billboard Music Charts with Fergal Cavan on voce and Gino Palombo on controls. Oggi è il 28 novembre e che è successo 35 anni fa nel 1966, 28 novembre, The Monkees, che abbiamo appena sentito, hanno guadagnato il loro terzo disco d'oro per questo brano I'm a Believer, il quale rimaneva poi al numero uno per ben 7 settimane. Ma bravissimi questi Monkees, I'm a Believer. Allora vi ricordo i nostri numeri: 335, ecco. ho perso tutto. 081 549 91 91, il nostro numero di telefono e il nostro sms, ecco. 0 non si mette più. 335 537 91 91. Allora sarà l'effetto di Erran che sta mangiando la lasagna in un ristorante di Assassino a Milano stasera. Buon appetito, Erran. E noi ti possiamo proporre il nuovo singolo di Aerosmith, perché sicuramente quando ti svegli domattina e esci nella bella sole di Milano dici: questo lasagna, ma che l'ho mangiato. Oh, ma sole a Milano, sole a novembre in Italia, ci sta un po'. Anyway, here's Aerosmith. Il pezzo si intitola Sunshine. Like a walk in the park. But then I met her. Yeah, she felt so alive. Sound of Aerosmith sicuramente sarà un enorme successo per loro, ma io mi chiedo a che fanno un brano di nome Sunshine in pieno inverno, magari sperando che questa bella musica riporterà almeno l'idea del sole i grandi, grandi Aerosmith che hanno suonato pure a Napoli un paio di anni fa. Che mega concerto che era! Allora ragazzi, è in edicola il nuovo numero di Ateneapoli, il quindicinale di informazione universitaria al 17° anno di pubblicazione. E tra i titoli che si tratta questo mese è Mangiare a mensa che costa più caro, ridotte la fascia da 2 a 3, anzi da 3 a 2, 2.500 e 5.000 lire il buono pasto. Ateneapoli è in tutte le edicole di Napoli e provincia e del Casertano a sole 2.000 lire. Billboard Music Chart. New York Billboard Music Chart. Alicia Keys, Falling, dal suo album Songs in A Minor, il che è stato un grande successo per lei in Italia. Allora, un po' di polemica al momento per Robbie Williams. Ha fatto un concerto che è stato trasmesso dal vivo sul BBC Television, però purtroppo ha mandato un sacco di bestemmie durante questo pezzo e hanno avuto un sacco di lamentelli da quelli che guardavano il programma. Something stupid, eh? Right. it's Sananda Maitreya, meglio conosciuto come Terence Trent D'Arby, e questo pezzo si intitola Oh Divino. E Terence Trent D'Arby doveva suonare a Milano in questi giorni, proprio un paio di giorni fa, però non si sa perché non ha suonato più. Infatti ha annunciato non suonerà più senza spiegazione. Comunque si è fatto vedere a Milano lo stesso, cose molto molto strane. Allora devo salutare a chi mi ha scritto al 335 537 9191. Ciao Skipper, come stai? Mi ha scritto in questo fredda sera d'autunno trascorso davanti ai libri d'inglese, l'unica cosa che mi tira su è morale è Radio Club 91. Bellissimo, grazie Skipper, e in bocca al lupo per il tuo primo compito inglese domani. Ok, siamo arrivati al momento del nostro album della settimana. Vi ricordo che questa settimana non è un album ma un singolo. Vi stiamo facendo sentire delle versioni diverse di What's Going On, un brano che è di beneficenza per la AIDS, visto che sabato è World AIDS Day, il giorno del mondiale, giorno del AIDS mondiale. E ragazzi, oggi ho saputo che ci sono più di 40 milioni di persone al mondo che hanno le AIDS, e in Italia soltanto sono 10 nuovi casi al giorno, una cosa allucinante. Allora, What's Going On, un bel pezzo che è stato organizzato da Bono degli U2, e noi stasera vi proponiamo una versione cantata da Bono insieme a Chris Martin dai Coldplay, il cantante, e prodotto di Brian Eno con la chitarra di The Edge degli U2. Questo per me è la versione più bella che c'è sul CD, quindi godetelo sul nostro album della settimana, What's Going On. Too many of you crying. Oh brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some love here to stay. Hey, father, father, we don't need to escalate. For only love can conquer me. You know we've got to find a way to bring some love in here to stay. Hey, picket lines won't block our way. So punish me with brutality. Talk to me and you can see. What's going on? What's going on? What's Borsino VIP. Mode, Dream On, versione remixato, bello questo. Allora ragazzi, un paio di settimane fa povero Craig David stava facendo un concerto a Londra e appena prima del concerto è arrivata una telefonata minacciandolo alla morte con un bel tear gas, cioè questo gas di lacrime. Allora praticamente Craig David ha detto: non voglio fermarmi, sono un po' impaurito, però non voglio che non suono i miei concerti. Ha fatto il concerto e tutto a posto. Eccolo qua, number 23 in America. This is called Fill Me In by Craig. Kicking this girl next door when her parents went out. She phoned, say, hey boy, come on right around. So I knocked at the door, he was standing with a bottle of red wine ready to pour, just in a long black satin laced to the floor. So I went in and we sat down, stopped kissing, caressing, told me about jacuzzi, sounded interesting. So we jumped right in, all calls diverted to answer phone. Please leave a message after the tone. I mean, her parents were kind of cool, but they were the fine line between me and you. We were just doing things young people in love do. Parents trying to find out what we were up to. Saying, why were you creeping down late last night? But then I see two shadows moving in your bedroom. Now you're dressed in black, when I left you were dressed in white. Can you feel me? If you'd ask me to come out, I'd say, hey girl, come right around. So she knocked at the door, I was standing with the keys in my hand to the 4x4, tempting my ride, tripping and nobody saw. The club we went in, we got down, bow, bounce to the rhythm. So it was early morning, so we better be leaving. So I gave you my jacket for you to hold. Told you to wear it, cause you felt cold. I mean, I didn't mean to break the rules. I weren't trying to play mom and dad for fools. We were just doing things some people in love do. Parents trying to find out what we were. saying, why can't you keep your promises? No more saying you'll be home by 12, who's strolling in at 4. I'll wait the girls, but leave you with the boy next door. Can you feel me? Wearing a jacket, who's property? Said you've been queuing for a taxi, but you left all your money on the TV. Can you feel me? See two shadows moving in your bedroom light. Now you're dressed in black, when I left you were dressed in white. Can you feel me? Can you feel me? I've got ready to answer phone. Red wine bottle, half a contest gone. Midnight return, jacuzzi turned on. Can you feel me? London Billboard Music Chart. Sempre al numero uno in tutta Europa, e non solo questo, è anche la più quotata come i brani più belli dell'anno in Inghilterra. C'è la Britannia Record of the Year Award. Dicono che Kylie vincerà, è più quotata. C'è poi arriva Robbie Williams e S Club 7, c'è anche Afro Man Lee. Comunque per me sì, Kylie, hai vinto non solo il disco più bello dell'anno, ma anche tante altre cose, perché mi porti indietro con i ricordi nel 1984 quando sei uscito per la prima volta. Ragazzi, here's US3, Can't Hold Me Down. Non mi puoi tenere giù, un bel pezzo all'americano on Billboard Music Charts. You could make grown men gasp when you go walking past them in your hot pants and high heels. Oh, they could not believe that such a body was for real. It seemed like rainbows would appear. Whenever you came here, the clouds would disappear because you looked just like a girl. Your baby blues would flash and suddenly a spell was cast. You're such a E loro sono impegnato in questo momento a fare il tour con le U2 e U2 come support band in America. E sicuramente quello sarebbe un gran bel spettacolo. Prima i Garbage e poi gli U2. Ci sono anche quelli che dicono che Larry Mullen salirà sul palco, il batterista degli U2, a fare il batterista per i Garbage, visto che non si sente molto bene Bruce Vig, il batterista dei Garbage. Allora, vi ho già raccontato del fatto che Kylie Minogue è il più quotato canzone dell'anno per vincere il Britannia Record of the Year, quotato sulle 6-4, però invece al 16-1 non è molto quotato, però ci farebbe piacere anche se vincesse, sarebbe Afro Man, un gran bel pezzo, un ex number one in Inghilterra. Questo si intitola Because I Got High. And I know why. Yeah, cause I got high. Because I got high. Because I got high. Then I got high. Now I'm jacking up. tutti insieme ragazzi. La ta ta ra ta ta ra ta. Vi voglio sentire. Wow, ci avete la voce simile ad Afroman. Complimenti ai nostri ascoltatori di Radio Club 91. Allora ragazzi, siamo arrivati al momento della proposta. Praticamente dovevo metterlo ieri sera, poi vi spiegherò. Però vi ricordo che voi potete anche contattarci, firmare il nostro guestbook al 335 537 9191. E ci potete anche telefonare, c'è Gino che vi risponderà con un gran sorriso. 081 549 9191 il nostro numero di telefono, e sms 335 537 9191. Allora, il nostro proposto lo dovevo mettere ieri sera perché ha piovuto un bel po', però l'abbiamo tenuto per questa sera. E visto che ancora non abbiamo messo il grande Bob Dylan sul nostro programma, stasera sembra la serata giusta. Dal album Blood on the Tracks del 1974, alzate gli stereo ragazzi, perché questo è Pockets of Rain. Buckets of rain, buckets of tears, got all them buckets coming out of my ears, buckets of moonbeams in my hand. You got all the love, honey, baby, I can stand. Pretty people disappear like smoke. Friends will arrive, friends will disappear. If you want me, honey, baby, I'll be here. Everything about you is bringing me misery. Ecco, questo è il titolo del bellissimo pezzo, nuovo singolo di Macy Gray, tenuto dall'album The Edge, che si trova al numero 78 on the Billboard Hot 200 Album Charts. Allora, con questa bella notizia ragazzi, vi dobbiamo lasciare. Siamo molto dispiaciuti perché ci siamo divertiti, abbiamo avuto Eran, abbiamo avuto messaggi da voi ascoltatori, abbiamo avuto la traduzione di Tren, abbiamo avuto un sacco di belle cose. Però ragazzi, non vi preoccupate, torniamo domani sera puntuali alle ore 21. From Gino Palombo and from Fergal Kavanagh, a domani, baci forti.